Quando Melly caricava il fieno sul carro per portarlo a casa, Laura saliva a pigiarlo coi piedi via via che lui lo buttava dentro col forcone. Alla fine, quando il carro era pieno, lei si trovava lassù in cima al mucchio. Arrivati al fienile, si lasciava scivolare giù e atterrava nelle braccia di Melly e poi veniva deposta a terra. Melly faceva le biche nel campo con un rastrellone a traino, costituito da un'asse lunga e larga in cui erano infilati a distanza regolare lunghi denti di legno. Alle due estremità venivano attaccati i cavalli, in modo che camminando uno di qua e l'altro di là di un'andana di fieno trainassero la tavola di sbieco. I denti si infilavano sotto il fieno che si ammucchiava davanti alla tavola e veniva trascinato avanti. Quando il mucchio era abbastanza grosso ed era arrivato dove doveva essere la bica, Manly rovesciava l'asse che passava sopra il fieno e lo lasciava a terra ammucchiato. Diversi mucchi davano inizio a una bica. Via via che i cavalli arrivavano con altro fieno, li si faceva passare uno di qua e uno di là e il rastrello saliva sul mucchio. Manly ci andava dietro, rovesciava il carico in cima e scendeva dall'altra parte per andare a prendere un altro carico. Barnum si comportava bene e passava rasente la bica, trainando il rastrello come doveva, ma Skip si fermava se non c'era qualcuno a farla camminare. Perciò Laura l'accompagnava per tutta la lunghezza della bica, poi si sedeva al sole con le spalle contro il mucchio di fieno profumato e aspettava che Melly tornasse con il carico successivo. Quando la bica era abbastanza alta, Melly la pareggiava bene su tutti i lati col forcone e ci raccoglieva sopra il fieno sparso, poi ci aggiungeva in cima ancora un carro di fieno. Così trascorsero le belle giornate d'autunno, le notti si fecero più fredde, ci furono le prime brinate. La stagione del fieno era finita. Melly aveva ipotecato la proprietà per 800 dollari, così poterono comprare il carbone per l'inverno e stivarlo nel magazzino. Vennero pagate le tasse sulla concessione, che ammontavano a 60 dollari. Sul lotto a bosco non c'erano tasse perché non lo avevano ancora riscattato. Pagarono anche gli interessi sui debiti delle macchine e quello che restava doveva servire ad acquistare le sementi per l'anno successivo e speravano a campare fino al prossimo raccolto. Il fieno aveva contribuito. Melly ne aveva vendute 40 tonnellate a 4 dollari la tonnellata. Quei 120 dollari erano tutto quello che la terra aveva reso quell'anno. Le oche selvatiche tardarono a scendere dal nord e quando comparvero sembrava non avessero nessuna fretta di riparare a sud. Calavano a pascolare nelle paludi e si spostavano pigramente da un lago all'altro. Erano tante da coprire quasi gli specchi d'acqua. Il cielo era pieno di stormi in formazione e l'aria risuonava dei loro richiami. Un giorno Melly corse in casa a prendere il fucile. «C'è uno stormo così basso che forse riesco a prenderne una», disse a Laura. Uscì di corsa e, dimenticando che quel vecchio fucile rinculava, lo alzò davanti al viso, trattenne il fiato e premette il grilletto. Laura lo raggiunse giusto in tempo per vederlo girare su se stesso con le mani sulla faccia. «L'hai presa?» «Sì, ma non l'ho uccisa», rispose Melly asciugandosi il sangue che gli colava dal naso. Lo stormo, nel frattempo, aveva raggiunto indenne le compagne sul lago. Sarebbe stato un inverno mite. Le oche sapevano che non c'era fretta di portarsi a sud. Quando fu completata anche l'aratura del piccolo campo della concessione, il grosso dei lavori autunnali ebbe termine. In novembre venne la neve e coprì il terreno. Melly e Laura, tutti intabarrati e ben coperti, uscivano in slitta nei pomeriggi di sole. Siccome Laura si sentiva meglio all'aperto, Melly costruì uno slittino e una pettorina per il vecchio Shep. Quando c'era bel tempo, Laura attaccava Shep allo slittino e si faceva tirare giù dal pendio sotto casa fin sulla strada. Poi tornavano su. Shep tirava la slitta e Laura gli camminava accanto. Andavano avanti così finché Laura non si stancava di andare su e giù. Shep non si stancava mai e a volte, quando la slitta si incagliava in un cumulo di neve e Laura rotolava a terra, sembrava davvero che ridesse. Così passò novembre. E venne dicembre. La mattina del 5 dicembre c'era il sole, ma a nord si vedeva il maltempo in arrivo. «Ti conviene stare fuori quanto puoi oggi perché domani farà brutto», disse Melly. Così, subito dopo colazione, Laura attaccò Shep allo slittino. Poco dopo però rientrò in casa. «Non mi va di star fuori», disse quando Melly tornò dalla stalla. Avrei voglia di raggomitolarmi accanto alla stufa. Anche dopo pranzo, lavati i piatti, andò a sedersi sulla sua piccola sedia a dondolo senza far nulla. Melly si impensierì. Nel pomeriggio scese al fienile e tornò con i cavalli attaccati alla slitta. Vado a prendere tua madre, disse. Non ti muovere finché non torniamo. Nevicava a fitto. Dalla finestra Laura lo vide partire di buon trotto. Pensò che con quel passo i cavalli avrebbero vinto le corse del 4 luglio. Poi andò avanti e indietro per la stanza o stette seduta accanto alla stufa finché Melly non fu di ritorno. Santo cielo! Esclamò mamma correndo a scaldarsi le mani sul fuoco. Cosa fai in piedi? Mettiti subito a letto. Laura rispose: Ma mi toccherà stare a letto per un pezzo. Voglio stare su finché posso. Poco dopo, però, capitolò e quasi non si accorse che Melly era uscito di nuovo per andare a prendere un'amica di mamma in paese. La signora Power era un'irlandese, allegra e cordiale. Laura si accorse che era lì perché la sentì esclamare: Ma certo che andrà tutto bene. Giovane com'è? 19, eh? L'età della mia Mary. Ma adesso direi che è ora di far venire il dottore. Quando Laura fu di nuovo in grado di vedere e sentire quello che le succedeva intorno, mamma e la signora Power erano una di qua e una di là dal letto, e quello lì ai piedi del letto era Melly? No, Melly era andato a prendere il dottore. E allora c'erano due mamme e due signore Power? Aveva l'impressione che fossero ovunque intorno a lei. Com'era quel vecchio inno che cantava sempre papà? Angelo mio custode, non mi abbandonare, sulle tue ali bianche portami via con te. E fu un'ondata di dolore a portarla via. Tornò in sé a una ventata di aria fredda. Alla luce della lampada vide uno sconosciuto lasciare il cappotto pieno di neve accanto alla porta e venire verso di lei. Sentì vagamente un panno sfiorarle la faccia e un odore acuto penetrarle nel naso. Poi scivolò in un'oscurità benedetta in cui non c'era più nessun dolore. Quando aprì gli occhi, la lampada era ancora accesa e mamma era china su di lei con il dottore accanto. Al suo fianco, sul letto, c'era un fagottino tiepido. Guarda la tua bambina, Laura, è bellissima e pesa 8 libbre esatte, disse mamma. Una bella ragazza sei, anche tu, disse la signora Power, da accanto alla stufa dove era seduta. Forte e coraggiosa, e perciò la bambina sarà buona. Ora è tutto passato. Melly riportò a casa la signora Power e il dottore. Mamma restò e Laura si addormentò con la mano posata sulla piccola Rose. La bambina era così buona, così sana e robusta che mamma restò solo qualche giorno. Poi venne Hattie Johnson per lavare la bambina, questa volta non i vetri, disse. Ma di lì a poco anche Hattie se ne andò e loro tre. Melly, Laura e la piccola Rose rimasero soli nella casettina in cima al dosso, con la vuota distesa della prateria tutt'attorno. Non avevano vicini perché non c'erano altre case nei dintorni, ma a 1 miglio di distanza, al di là della palude, si vedevano i primi edifici del paese. 100 preziosissimi dollari se ne erano andati per il medico, le medicine e l'aiuto di cui Laura aveva avuto bisogno durante l'estate. E fino a quel momento dell'inverno. Ma una rosa in dicembre è assai più rara di una rosa di giugno, ed è naturale che costi di conseguenza. Si avvicinava il Natale e Rose era stata un magnifico regalo. Ma il giorno prima di Natale Melly portò un carico di fieno in paese e tornò con una splendida pendola. Misurava quasi 2 piedi di altezza, dalla base di noce massiccio alla foglia intagliata sulla punta. Lo sportello di vetro che copriva il quadrante era incorniciato da un tralcio di vite dorata su cui saltellavano 4 uccellini. E anche il pendolo che batteva il tempo dietro il vetro era colore dell'oro. Com'era simpatico e allegro il suo tic-toc, tic-toc. E che bel suono, limpido e chiaro, quando batteva le ore. Laura se ne innamorò subito. La vecchia sveglia rotonda di nickel non era più molto attendibile, anche se, per quello che a loro serviva, poteva bastare. Laura disse titubante. Ma era. Melly le spiegò che aveva avuto la pendola in cambio di un carro di fieno e che quello era il regalo di Natale per tutti e tre. Il fieno che avevano rendeva così bene che ce n'era d'avanzo per le bestie per tutto l'inverno e in ogni caso non avrebbe potuto venderlo perché non c'erano più spedizioni a Chicago. Natale trascorse lietamente, anche se il tempo era pessimo e dovettero starsene chiusi in casa. Passata la tempesta, vennero giornate limpide e freddissime, fino a 25 o 30 gradi sotto zero. Un giorno la temperatura parve più mite del solito. Dopo essere stata tanto tempo in casa, Laura aveva una gran voglia di una corsa in slitta. Propose di andare a trovare i suoi genitori. Potevano portare fuori la bambina? Ma sì, certo che poteva uscire. Misero delle coperte a scaldare accanto alla stufa. Poi Melly portò la slitta davanti alla porta e con le coperte costruì un piccolo nido caldo al riparo del cruscotto. Avvolsero Rose, tutta intabarrata nel suo cappottino rosso col cappuccio, in altre coperte calde, le coprirono il viso con un sottile fazzoletto di seta azzurra e la sistemarono sulla slitta. E via di corsa con i cavalli al trotto e le campanelle che tintillavano allegramente. Di tanto in tanto, Laura infilava la mano tra le coperte e toccava il visino di Rose per accertarsi che fosse calda e che sotto il velo respirasse bene. Parve una corsa breve, pochi minuti soltanto, ed eccoli davanti alla porta della casa dove Laura abitava da ragazza. Entrarono di corsa e si presero una gran sgridata. «Siete matti!» disse papà. «Portare fuori la bambina con 20 sotto zero!» In effetti, così diceva il termometro. «Poteva soffocare!» esclamò mamma. «Stavo attenta! Non poteva succederle niente!» replicò Laura. E Rose scosse le manine, ciangottando beata. Non aveva sofferto il freddo, aveva dormito tutto il tempo. A Laura non era neanche passato per la mente che potesse essere pericoloso portarla fuori con quel gelo, ma tornando a casa stette in ansia e fu contenta quando arrivarono sane e salve. Che complicazione avere a che fare con dei bambini! Per qualche tempo non vi furono altre gite in slitta, poi un giorno davvero molto più mite andarono a trovare i Bost, che abitavano a 4 miglia di distanza. Marito e moglie vivevano soli nella loro proprietà, non avevano figli e fecero a Rose moine a non finire. Quando fu ora di tornare a casa, il signor Bost uscì ad accompagnarli alla slitta e lì, dopo qualche istante di esitazione, disse con voce strana: «Ragazzi, se mi lasciate qui la bambina perché la cresca, Ellie, potete prendere il più bel cavallo che ho nella stalla e portarvelo via». Esterrefatti, Melly e Laura non avevano ancora ritrovato la parola che lui aggiunse: «Voi potete avere un altro bambino, noi no, non possiamo avere figli». Melly raccolse le redini e Laura mormorò: «Oh no, no, andiamo via, Melly». E mentre partivano si strinse Rosa al petto. Ma provò pena per il signor Bost, che era rimasto lì dove lo avevano lasciato, e per la signora Bost, che lo aspettava in casa, sapendo, ne era certa, che cosa si erano detti lì fuori. Il resto dell'inverno passò rapidamente. Non ci furono altre tempeste e il tempo fu mite per la stagione. Venne aprile e in tutte le fattorie della zona si cominciò a seminare. Un giorno, era il 12 aprile, Melly scese nel fienile a preparare i cavalli per il lavoro del pomeriggio. Quando entrò splendeva il sole, non c'era nessun motivo di temere il maltempo. Ma quando li ebbe spazzolati, strigliati e vestiti e stava per portarli fuori, ci fu un colpo come se qualcosa si fosse schiantato con forza contro l'intera parete del fienile. Un istante dopo sentì l'urlo del vento e guardando fuori non vide altro che il turbinio della neve. Una bufera, in aprile! Non era possibile. Aprile era il tempo dei lavori in campagna. Non credeva ai suoi occhi. Se li stropicciò e guardò fuori di nuovo. Poi riportò i cavalli nei box e si avviò a casa. Doveva percorrere una certa distanza e non vedeva nulla, ma lungo il sentiero erano sparsi diversi oggetti: la slitta da diporto, il carro, la slitta da carico. Andando dall'uno all'altro nella direzione in cui sapeva di trovarli, arrivò al portico di casa. Laura guardava dalla finestra preoccupata, ma non riuscì a vederlo finché Melly non entrò in casa. Fu la peggiore bufera di tutto l'inverno. Imperversò per 2 giorni filati, senza un momento di tregua. Il vento fischiava e urlava senza posa. Ma la casa era calda e confortevole. Le bestie erano al riparo nel fienile e, seguendo la linea delle slitte e del carro, Melly riuscì ad andare e tornare sano e salvo una volta al giorno per riempire le mangiatoie e i secchi dell'acqua. Quando Quando il sole tornò a splendere la mattina del terzo giorno e il vento si ridusse a una debole raffica di tanto in tanto, fuori apparve un mondo invernale. Molti erano stati sorpresi dalla bufera mentre si trovavano nei campi e non lontano da lì due viaggiatori avevano perso la vita. Il signor Bowers, un colono che abitava 2 miglia a sud del paese, stava lavorando in campagna quando due forestieri che passavano di lì gli avevano chiesto indicazioni per arrivare dai Matthews. Venivano dall'Illinois e volevano passare a trovare gli amici. Bowers aveva indicato la casa che si vedeva in fondo alla prateria e i due avevano ripreso il cammino. Poco dopo era scoppiato il maltempo e Bowers si era rifugiato in casa. Il primo giorno di sole Bowers vide Matthews passare di lì, diretto in paese, e chiese notizie dei due dell'Illinois. Matthews non li aveva visti. Preoccupati andarono insieme a cercarli. Li trovarono dentro un pagliaio che se ne stava solitario in mezzo alla prateria, parecchio discosto dalla strada che avrebbero dovuto seguire. Imbattutisi nel pagliaio, i due avevano preso del fieno per accendere un fuoco, ma poi, rinunciando all'idea di scaldarsi lì all'aperto, ci si erano infilati dentro e là erano morti assiderati. Se avessero continuato a camminare, forse ce l'avrebbero fatta a sopravvivere alla bufera, perché era durata soltanto 2 giorni. Anche se avessero avuto indumenti adeguati, in mezzo alla paglia non sarebbero morti di freddo, ma portavano abiti leggeri, adatti alla primavera in Illinois. E non certo a una bufera di neve dell'ovest. La neve sparì rapidamente, fu davvero primavera, con il canto delle stornelle e il profumo delle viole e il bel verde tenue dell'erba novella che andava rivestendo tutta la prateria. Laura mise Rose nel cesto della biancheria con la sua minuscola cuffietta a ripararla dal sole e se la tenne accanto mentre aiutava Mellie a fare l'orto. Il vecchio Shep se n'era andato, non si era mai rassegnato alla presenza di Rose e ne era sempre stato geloso. Un giorno era sparito e nessuno lo aveva più visto. Al suo posto era stato adottato un cordiale San Bernardo che era arrivato lì chissà da dove, un cane gigantesco, tutto nero. Il San Bernardo doveva essersi messo in testa che era suo compito precipuo fare la guardia a Rose. Dov'era la bambina, là se ne stava sempre anche lui, acciambellato intorno a lei. O accovacciato lì accanto. La stufa venne spostata nel magazzino in modo che la stanza restasse più fresca ora che si avvicinava la calura. E in quella sua nuova cucina estiva, Laura lavorava felice con Rose e il cagnone nero che giocavano o dormivano sul pavimento. Non poteva montare a cavallo con una bambina così piccola, sarebbe stato molto rischioso, ma non ne sentiva troppo la mancanza perché Melly aveva inchiodato una cassetta sul pianale del calesse, lasciando giusto un po' di spazio per i piedi di Laura all'estremità del sedile del conducente. Dopo pranzo, quando aveva finito di rigovernare, Laura attaccava Barnum, metteva Rosa a sedere nella cassetta con la sua cuffietta rosa in testa e andava a spasso. A volte arrivava fino in paese, ma più spesso andava a trovare la mamma e le sorelle. All'inizio mamma era piena di timori al pensiero che Rose venisse portata in giro in quel modo. Poi però ci si era abituata. Barnum era un gran trottatore, ma era docile e di passo gentile, e il calessino su due ruote era leggero e stabile. Rose non poteva cascare fuori dalla cassetta e Laura sapeva tenere il cavallo. Se era Barnum a tirare, non aveva mai neppure un istante di incertezza o di preoccupazione. E siccome Melly non aveva nulla da obiettare, tornava a casa giusto in tempo per mettere in tavola la cena. Tra le faccende di casa, il lavoro dell'orto, l'impegno di Rose e le gite in calesse, passò l'estate e fu di nuovo il momento di fare il fieno. Ora Rose stava a sedere al riparo di un'andana e guardava Laura, che guidava Skip col rastrello da traino. A Laura e a Melly piaceva lavorare così, nei campi di fieno, al sole e all'aria, lasciando Rose a dormire placidamente con il cagnone di guardia. A volte era Laura a guidare la falciatrice con Skip e Barnum, mentre Melly portava il rastrello con Fly e Trixie. Quell'autunno non ci furono trebbiatori da mettere a tavola perché della trebbiatura si erano occupati i fittavoli della concessione a Bosco. Il raccolto non rese come avrebbe dovuto. Era stata una stagione troppo secca e il prezzo del frumento era sceso a soli 50 centesimi a staio. Ma se non altro ci furono i soldi per pagare tutti gli interessi e alcune delle cambiali più piccole, quelle per la falciatrice, il rastrello a traino e l'aratro a seggiolino, nonché la prima rata della mietitrice. Restavano da pagare il carro, i 500 dollari di debito sulla casa e l'ipoteca da 800 dollari sulla concessione. E poi bisognava mettere da parte le sementi per l'anno successivo, pagare le tasse, comprare il carbone per l'inverno e avere di che campare fino all'anno dopo. Avrebbero avuto di nuovo anche il fieno da vendere. Quell'anno c'erano anche due manzi. Erano due belle bestie di 2 anni che valevano 12 dollari ciascuna, 24 dollari, che sarebbero tornati utili per le spese vive. Non era andata male, considerata la stagione. Era di nuovo il 25 agosto e l'inverno e l'estate passati erano quelli del secondo anno. Il terzo anno. Con l'avvicinarsi della stagione fredda, Laura aveva proposto di spostare di nuovo la stufa di cucina nella stanza dove abitavano e non capiva perché Melly tergiversasse, finché un giorno lo vide tornare dal paese con una stufa a carbon fossile. Era un bell'oggetto di lucida ghisa nera con scintillanti guarnizioni nickel. Melly spiegò che quella spesa alla fine avrebbe costituito un risparmio. Bastava così poco combustibile per farla funzionare che, benché il prezzo del carbon fossile fosse di 12 dollari la tonnellata contro i 6 del carbone di legna, la spesa totale sarebbe stata inferiore. E poi avrebbero avuto una bella temperatura costante, un po' di calore anche di notte, oltre che di giorno. E senza gli sbalzi dal caldo al freddo, cui li costringeva l'altra stufa, non avrebbero corso il rischio di ammalarsi. La parte superiore di nickel era mobile e togliendola si poteva cucinare anche su quella stufa. Non c'era il forno, certo, ma nei giorni in cui Laura avesse fatto il pane, avrebbero acceso l'altra stufa nel magazzino. Rose aveva cominciato a gattonare, o meglio a trascinarsi qua e là un po' a caso, ed era necessario tenere il pavimento un po' caldo. Laura pensava che la stufa nuova per loro fosse una spesa eccessiva, ma quelle erano questioni che riguardavano Melly. Lei non doveva preoccuparsene e che lui soffrisse il freddo era fuori di dubbio. Per quanti strati si mettesse addosso, non aveva mai abbastanza caldo. Per questo gli stava facendo una maglia a maniche lunghe di morbida lana Shetland come regalo di Natale. Non era facile riuscire a finirla senza farsi vedere. Ma la seconda, perché avesse il ricambio, gliel'avrebbe confezionata con calma dopo Natale. Melly indossò la maglia nuova il giorno di Natale quando andarono con la slitta a pranzo dai genitori di Laura. Era calato il buio quando si accomiatarono e aveva cominciato a nevicare. Per fortuna non era una vera tempesta di neve, ma nevicava fitto e c'era vento. Rose era ben coperta e Laura la teneva al riparo delle sue braccia. Tutte e due erano avviluppate nelle coperte. Melly accanto a loro aveva addosso il giaccone di pelliccia. Andavano piano perché avevano il vento in faccia e dopo un po' Melly fermò i cavalli. Mi pare che abbiano deviato dalla strada. Non amano camminare contro vento, disse. Si sfilò da sotto le coperte, scese dalla slitta e ispezionò il terreno per cercare qualche traccia della strada. Ma la neve aveva coperto tutto. Alla fine, grattando col piede, ritrovò il solco delle ruote sulla carreccia. Era appena qualche passo più in là. Da quel momento Melly fece tutta la strada a piedi, conducendo i cavalli al passo, per seguire la traccia che intuiva a tratti qui e là. Intorno c'era solo la notte nera. Nevicava su tutta la sterminata distesa vuota della prateria. Fu un sollievo arrivare a casa, nel tepore confortante della loro bella stufa nuova. Melly disse che la maglia aveva ampiamente dimostrato quanto valeva. Benché le temperature si mantenessero gelide, non vi furono mai le temibili tempeste di neve che a volte arrivano dal nord. L'inverno trascorse tutto sommato piacevolmente. Dal sud dello stato era arrivato Peter, un cugino di Laura. Lavorava dai Whitehead, una famiglia che abitava qualche miglio più a nord, e spesso la domenica veniva a trovarli. Il giorno del compleanno di Melly, per fargli una sorpresa, Laura invitò a pranzo Peter e i Whitehead. Aveva cucinato di nascosto sulla stufa che usava d'estate nel magazzino. La giornata trascorse in allegria. Il tempo era mite per l'inverno e il pranzo fu un successone. Ma, sebbene non facesse freddo, quel giorno Laura si prese un'infreddatura, le venne un po' di febbre e dovette mettersi a letto. Mamma venne a trovarla e si portò via Rose per qualche giorno, ma invece di migliorare il raffreddore peggiorò e divenne un forte mal di gola. Chiamarono il medico, il quale disse che non era un'infreddatura, ma una brutta difterite. Per fortuna Rose era al sicuro, C'era solo da sperare che non fosse stata contagiata anche lei prima di essere portata via. Furono giorni angosciosi in cui toccò a Melly accudire Laura, ma finalmente seppero dal medico che Rose stava bene e non si era ammalata. Fu Melly invece ad ammalarsi. Quella mattina, quando passò a visitare Laura, il medico gli ordinò di mettersi immediatamente a letto e di restarci. Avrebbe provveduto lui a mandare qualcuno ad aiutarli. E venne Royal, il fratello di Melly, che era scapolo e viveva solo. Quella era parsa la soluzione migliore. Così, chiusi in una stanza, con Royal che faceva ciò che poteva, Laura e Melly trascorsero i giorni febbricitanti della malattia. Laura l'aveva presa in forma grave, Melly più leggera. Finalmente cominciarono a stare meglio e poterono alzarsi dal letto, anche se il medico aveva raccomandato che non si affaticassero. Roy, alla sua volta affaticato e anche lui poco in salute, se n'era tornato a casa e Laura e Melly, ben imbacuccati, passarono una giornata nel magazzino mentre si provvedeva a fumigare la stanza della malattia. Dopo qualche giorno anche Rose fu riportata a casa. Nel frattempo aveva cominciato a camminare, come sembrava cresciuta, a trotterellare per la stanza e soprattutto era bello stare di nuovo bene. Laura si diceva che ora finalmente le cose sarebbero andate meglio, ma non fu così. I guai non erano finiti.